Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Figuriamoci se San Marino non entrava anche nelle indagini con le quali le procure di Milano, Napoli e Reggio Calabria hanno squassato la credibilità dei duri e puri della Lega Nord. Nel decreto di perquisizione e sequestro disposto dalle procure nei confronti di alcuni indagati si legge infatti che Paolo Scala, intermediatore finanziario italiano che vive e lavora a Cipro, indagato nell'operazione che ha portato alle dimissioni del tesoriere della Lega Nord Francesco Belsito, viene contattato con un'utenza svizzera da tale Rita che gli chiede i costi della tassazione per costituire una società a Cipro. La società avrebbe dovuto acquistare dei prodotti chimici da Francia e Austria per poi inviarli a una società di San Marino per entrare infine in Italia. Passaggi, sia ben chiaro, da effettuare in evasione d'imposta. Ma se queste sono le carte delle procure che accusano ancora una volta San Marino di prestarsi a facili giochi elusivi o evasivi, bisogna registrare che, forse per la prima volta ufficialmente, al Titano vengono riconosciuti, pur tra mille difficoltà, passi in avanti nella collaborazione con l'Italia. A farlo è Fausto Zuccarelli, procuratore aggiunto della Procura Nazionale Antimafia, delegato alla sezione Reati Finanziari, il quale dice: «I rapporti sono aumentati, lo scambio di informazioni reciproche è più fluido che nel passato e ci ha permesso di rispondere e ottenere risposte in rogatoria». La maggiore collaborazione è un elemento positivo, soprattutto alla luce di quanto subito dopo Zuccarelli dice: «Abbiamo prove cospicue che numerosissimi napoletani, camorristi o imprenditori aprono conti e fanno transazioni per milioni da e verso San Marino. Buona vita e a domani».